Il terzo anello, ad alta voce. Paolo Bonacelli legge I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas. Traduzione di Marisa Zini. Giunse finalmente la sera attesa con tanta impazienza da D'Artagnan. Verso le 9 questi si presentò, come al solito, in casa di Milady. La trovò in una meravigliosa disposizione di spirito. Mai l'aveva accolto così bene. Alla prima occhiata il nostro guascone capì che il suo biglietto era stato consegnato e faceva il suo effetto. Ketty entrò a portare dei gelati. La padrona le fece un viso accogliente, rivolgendole il più grazioso dei sorrisi. Ma la povera ragazza era così triste che neppure si accorse della benevolenza di Milady. D'Artagnan guardava alternativamente quelle due donne ed era costretto a confessare a se stesso che la natura, nel formarle, aveva sbagliato. Alla gran dama aveva dato un animo venale e basso, alla cameriera invece il cuore d'una duchessa. Alle 10 Milady cominciò a manifestare una certa agitazione. D'Artagnan capì che cosa ciò significasse, guardava la pendola, si alzava, si risedeva, sorrideva a D'Artagnan con aria che significava: «Siete molto simpatico, senza dubbio, ma se ve ne andaste mi fareste un piacere». D'Artagnan si alzò e prese il cappello. Milady gli porse la mano da baciare, il giovane se la sentì stringere e capì che si trattava non di civetteria, bensì di gratitudine per la sua decisione di lasciarla. «Lo ama freneticamente», mormorò D'Artagnan. Quindi uscì. Questa volta Ketty non lo aspettava né nell'anticamera, né nel corridoio, né al portone. D'Artagnan dovette trovare da solo la scala e la cameretta. Ketty se ne stava seduta e piangente con la testa tra le mani. Sentì entrare D'Artagnan, ma non rialzò il capo. Il giovane le si avvicinò e le prese le mani. Allora ella scoppiò in singhiozzi. D'Artagnan, per quanto poco disposto a intenerirsi, si commosse davanti a quel muto dolore, ma atteneva troppo ai suoi progetti e a questo sopra ogni altro per modificare, sia pur di poco, il suo piano. Non lasciò quindi a Ketty nessuna speranza di persuaderlo, si limitò a prospettarle il suo gesto come una vendetta e basta. Tale vendetta, d'altronde, diventava tanto più facile in quanto Milady, certo per nascondere il proprio rossore all'amante, aveva raccomandato a Ketty di spegnere tutte le luci nell'appartamento e anche nella propria camera. Prima dell'alba, Monsieur de Vardes sarebbe uscito, sempre nell'oscurità. Dopo un istante si sentì Milady rientrare in camera. Subito D'Artagnan si precipitò dentro l'armadio. Era lì rannicchiato da un attimo quando il campanello trillò. Ketty entrò dalla padrona senza lasciare la porta aperta, ma il tramezzo era così sottile che si poteva ascoltare quasi ogni battuta del dialogo fra le due donne. Milady sembrava pazza di gioia. Si faceva ripetere da Ketty i minimi particolari del preteso colloquio tra la servetta e De Vardes. Come questi avesse ricevuto la lettera, come vi avesse risposto, quale fosse l'espressione del suo viso, se sembrasse innamorato. E a tutte quelle domande la povera Ketty, costretta a mostrarsi disinvolta, rispondeva con una voce soffocata di cui la padrona non notava neppure il tono doloroso, tanto la felicità è egoista. Finalmente, siccome s'appressava l'ora del convegno con il conte, Milady fece spegnere tutte le luci e ordinò a Ketty di ritirarsi nella sua stanza e di introdurre De Vardes non appena fosse arrivato. L'attesa di Ketty non fu lunga. Quando D'Artagnan ebbe veduto dal buco della serratura dell'armadio che l'appartamento era completamente al buio, balzò dal nascondiglio proprio nel momento in cui Ketty chiudeva la porta tra le due stanze. «Sono io!» disse D'Artagnan sottovoce. «Io, il conte di Vardes!» «Ebbene!» disse Milady con voce tremante. «Perché non entra? Conte! Conte, soggiunse, sapete che vi aspetto!» A quell'appello D'Artagnan scostò con dolcezza Ketty e si lanciò nella camera di Milady. Se la rabbia e il dolore possono torturare un'anima, questo certamente accade all'amante che sotto mentite spoglie riceve profferte d'amore destinate a un fortunato rivale. D'Artagnan era in una situazione dolorosa che non aveva prevista. La gelosia gli mordeva il cuore ed egli soffriva quasi quanto la povera Ketty, che nello stesso istante piangeva nella stanza attigua. «Sì, conte», diceva Milady con la sua voce più soave, stringendogli teneramente la mano fra le sue. «Sì, sono felice dell'amore che i vostri sguardi e le vostre parole mi hanno manifestato ogni volta che ci siamo incontrati. Anch'io vi amo. Domani, domani voglio un pegno che mi provi il vostro attaccamento e siccome potreste dimenticarmi, prendete». E un anello passò dal suo dito a quello di D'Artagnan. Questi si ricordò di averlo veduto nella mano di Milady. Era un magnifico zaffiro contornato da diamanti. Il suo primo impulso fu di restituirglielo, ma Milady soggiunse: «No, no, serbate questo anello, per amor mio». D'Artagnan in quel momento fu lì lì per svelare ogni cosa. Aprì la bocca per dire a Milady chi fosse e con quale intento di vendetta fosse venuto, ma ella aggiunse: «Povero angelo, che quel mostro d'un guascone stava per uccidere». Il mostro era lui. «Ah», continuò Milady, «le vostre ferite vi fanno ancora soffrire?» «Sì, molto», disse D'Artagnan, che non sapeva bene cosa rispondere. «State tranquillo», mormorò Milady, «vi vendicherò io, e crudelmente». D'Artagnan disse fra sé: «Dannazione, il momento delle confidenze non è ancora arrivato». Ci volle un po' a D'Artagnan per riaversi da quel piccolo dialogo, ma tutti i pensieri di vendetta con cui era venuto erano completamente svaniti. Quella donna esercitava su di lui un potere indicibile. Egli l'odiava e l'adorava al tempo stesso. Non aveva mai creduto che due sentimenti del tutto opposti potessero coesistere nel medesimo cuore e, riunendosi, formare un amore strano e in certo qual modo diabolico. Intanto era scoccata l'una, bisognava separarsi. Nel momento di lasciare Milady, D'Artagnan non provò altro che un vivo rammarico d'allontanarsi, e nell'appassionato addio che si scambiarono fu deciso un nuovo convegno per la settimana successiva. L'indomani mattina D'Artagnan corse da Athos. Si era impegnato in una così strana avventura che voleva chiedergli consiglio. Gli raccontò ogni cosa. Più di una volta Athos corrugò le sopracciglia. «La vostra Milady», disse Athos, «mi sembra un'infame creatura. Voi però avete avuto ugualmente torto a ingannarla. In un modo o nell'altro vi siete fatto una nemica mortale». E così parlando Athos guardava attentamente lo zaffiro contornato di diamanti che aveva sostituito al dito di D'Artagnan l'anello della regina, accuratamente riposto in uno scrigno. «Guardate quest'anello», disse il guascone tutto fiero di sfoggiare agli occhi degli amici un dono così sontuoso. «Sì», rispose Athos, «mi ricorda un gioiello di famiglia». «Non è bello, forse?» «Magnifico», ribatté Athos. «Non credevo che esistessero due zaffiri di un'acqua così bella. L'avete cambiato con il vostro diamante?» «No», disse D'Artagnan, «è un regalo della mia bella inglese, o meglio, della mia bella francese, perché anche se non gliel'ho domandato, sono convinto che è nata in Francia». «Quell'anello vi viene da Milady?» domandò Athos con una voce nella quale era facile notare un forte turbamento. «Proprio da lei, me l'ha dato stanotte». «Mostratemi questo anello», disse Athos. «Eccolo», rispose D'Artagnan, sfilandoselo dal dito. Athos lo esaminò e impallidì. Poi lo provò all'anulare della mano sinistra. Andava a quel dito come se fosse stato fatto per lui. Una nube di collera e di vendetta passò sulla fronte calma del gentiluomo. «Sentite, D'Artagnan», disse Athos prendendogli la mano. «Sapete quanto vi voglio bene. Se avessi un figlio, non gliene vorrei di più. Ebbene, credete a me. rinunciate a quella donna. Non la conosco, ma una specie di intuito mi dice che è una creatura perduta e che in lei c'è qualcosa di fatale. Avete ragione, disse D'Artagnan. Difatti mi separerò da lei. Vi confesso che quella donna spaventa anche me. Avrete tanto coraggio, disse Athos. L'avrò, rispose D'Artagnan, e immediatamente. Fate proprio bene, figliuolo, disse il gentiluomo stringendo la mano al guascone con un affetto quasi paterno. Voglia Iddio che questa donna, che è appena entrata nella vostra vita, non vi lasci una traccia funesta. E Athos salutò D'Artagnan con un cenno del capo, come chi vuol fare intendere che amerebbe restarsene solo con i propri pensieri. Rientrato a casa, D'Artagnan trovò Ketty ad aspettarlo. Un mese di febbre non avrebbe mutato di più la povera bambina di quanto non l'avesse mutata quella notte di insonnia e di dolore. La sua padrona, pazza d'amore, ebbra di felicità, la mandava dal falso De Vard. Voleva sapere quando il conte le avrebbe concesso un secondo convegno. E la povera Ketty, pallida e tremante, aspettava la risposta di D'Artagnan. Ma Athos aveva un grande ascendente sul giovane. I consigli dell'amico, uniti alla voce del suo stesso cuore, l'avevano persuaso, adesso che il suo orgoglio era salvo e la vendetta compiuta, a non rivedere più Milady. Per tutta risposta egli prese una penna e scrisse la seguente lettera. «Non contate su di me, signora, per il prossimo convegno. Da quando sono convalescente ho tanti impegni di questa natura che ho dovuto mettervi ordine. Quando verrà il vostro turno avrò l'onore di comunicarvelo. Vi bacio le mani, Conte De Vard». Dello zaffiro non una parola. Il guascone voleva serbare un'arma contro Milady? Oppure, siamo sinceri, si teneva quello zaffiro come ultimo espediente per l'equipaggiamento? D'altronde avremmo torto a giudicare le azioni di una determinata epoca dal punto di vista di un'altra. Quello che oggigiorno verrebbe considerato un'infamia per un galantuomo era a quel tempo semplicissimo e del tutto normale, e i cadetti delle migliori famiglie si facevano per lo più mantenere dalle loro amanti. D'Artagnan passò la lettera aperta a Ketty, la quale dapprima la lesse senza capirla, poi, rileggendola una seconda volta, poco mancò che impazzisse dalla gioia. Ella non riusciva a credere a tanta felicità. D'Artagnan dovette ripeterle a viva voce le affermazioni contenute nello scritto e, per quanto grande, data la natura collerica di Milady, fosse il pericolo che correva la poveretta a consegnarle quel biglietto, ella se ne tornò a Place Royale con tutta la sveltezza che le gambe le consentivano. Il cuore della migliore delle donne è spietato per i dolori di una rivale. Milady aprì la lettera con la stessa fretta con cui Ketty l'aveva portata. Ma non appena letta la prima frase, divenne livida. Poi spiegazzò il foglio. Poi si voltò verso Ketty con gli occhi lampeggianti. «Cos'è questa lettera?» disse. «Ma è la risposta a quella della signora», rispose Ketty tutta tremante. «Impossibile!» esclamò Milady. «Impossibile che un gentiluomo abbia scritto a una donna una lettera simile!» Poi, d'un tratto trasalendo, «Dio mio», disse, «che sappia...» e si fermò. I denti le stridevano. Era color della cenere. Ketty pensò che stesse per svenire e si precipitò per slacciarle il corsetto. Ma Milady si risollevò con violenza. «Che volete da me?» disse. «E perché mi mettete le mani addosso?» «Credevo che la signora si sentisse male e volevo soccorrerla», rispose la cameriera atterrita dalla tremenda espressione che aveva assunto il volto della padrona. «Sentirmi male io? Io? Mi scambiate per una donnicciola? Se qualcuno mi insulta, io non mi sento male. Mi vendico, capite?» La sera Milady diede l'ordine di introdurre Monsieur D'Artagnan non appena questi fosse giunto per la visita consueta, ma egli non comparve. La sera Milady fu ancora più impaziente della vigilia. Rinnovò l'ordine relativo al guascone, ma come la vigilia aspettò inutilmente. L'indomani Ketty si presentò in casa di D'Artagnan non più allegra e vispa come i due giorni precedenti, ma al contrario mortalmente triste. D'Artagnan gliene chiese la ragione, ma la povera ragazza, per tutta risposta, trasse di tasca una lettera e gliela consegnò. Era la scrittura di Milady, questa volta però indirizzata a D'Artagnan e non a Monsieur de Vardes. Egli l'aprì e lesse queste righe. «Caro Monsieur D'Artagnan, è male trascurare così gli amici, soprattutto quando si è sul punto di lasciarli per lungo tempo. Mio cognato e io vi abbiamo atteso ieri e ieri l'altro inutilmente. Sarà lo stesso stasera? La vostra riconoscentissima Lady Cleric». «Naturalissimo», disse D'Artagnan. «Mi aspettavo questa lettera. Il mio credito sale in quanto scende quello del conte de Vardes». «E voi ci andrete?» chiese Ketty. «Senti, piccola mia», disse il guascone, che cercava di scusare anche di fronte a se stesso il suo venir meno alla promessa fatta ad Athos. «Capisci che sarebbe impolitico non accettare un invito così positivo. Milady, non vedendomi ritornare, non capirebbe il perché dell'interruzione delle mie visite, sospetterebbe forse qualcosa, e chi può dire fin dove si spingerebbe la vendetta di una donna di quella tempra?» «Mio Dio», disse Ketty, «voi sapete presentare le cose in modo da avere sempre ragione. Ma le farete ancora la corte, e se questa volta le piacerete con il vostro vero nome e con il vostro vero volto, sarà assai peggio della prima». L'istinto faceva intuire alla povera ragazza parte di ciò che doveva accadere. D'Artagnan la rassicurò come meglio poté e le promise che sarebbe rimasto insensibile alle seduzioni di Milady. Alle 9 in punto, D'Artagnan era in Place Royale. Evidentemente i domestici che aspettavano nell'anticamera erano avvisati, perché non appena egli comparve, prima ancora che chiedesse se Milady era disposta a riceverlo, uno di quelli corse ad annunciarlo. «Fate entrare», disse Milady con voce secca, ma così acuta che D'Artagnan la udì dall'anticamera. Egli fu introdotto. «Non ci sono per nessuno», ordinò Milady. «Capite? Per nessuno!» Il domestico uscì. Paolo Bonacelli ha letto I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas, riduzione di Lorenzo Pavolini, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi, il terzo anello, @rai.it.